Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Tarquinia, agosto 2010. Pappagallo nei guai per stalking. Vede, signor commissario, il pappagallo me l'ha regalato per Natale Gianni, il mio ex. È un pappagallo cenerino. Quando me l'ha portato mi sono arrabbiata, avrei preferito un cucciolo di cane, per essere preciso un Labrador beige. Inoltre, avevo visto in un documentario alla tele che i pappagalli possono vivere anche 70 anni. Beh, io non sono il tipo che ami gli impegni a lungo termine. Così ho detto, Gianni, sai dove te lo puoi mettere il cenerino? Ma lui non si è scoraggiato. Tienilo solo per un po', mi ha detto. Così l'ho tenuto e l'ho chiamato Loreto. Ho preferito restare sul classico, signor commissario. Io quelli che chiamano i figli Bob e i cani Umberto non li capisco. Mentre c'ero, visto che passo la giornata in portineria e il tempo non mi manca, provo a insegnare al pappagallo qualche parola. Ma lui non dà nessuna soddisfazione, l'unica cosa che gli interessa è mangiare, soprattutto semi germogliati. Così compro questo germogliatore, una specie di piccola sfera di plastica dove sistemo i semi in poca acqua e dopo un paio di giorni sono pronti. Ma questo, signor commissario, è un altro discorso. Un giorno Gianni mi dice che sua sorella, la madre del domatore, non vuole animali in casa e che per Loreto dobbiamo cercare un'altra sistemazione. Mi arrabbio, anche se a essere sincera il pappagallo io mi stavo affezionando. Ma quello che mi ha mandato i matti è stato il fatto che di Gianni non mi potevo fidare, mai, proprio mai. E signor commissario, io dico, quando in una coppia incomincia a entrare la parola mai, è arrivata l'ora di darci un taglio. Comunque Gianni praticamente si trasferisce da me, passavamo le serate in portineria, mai un'uscita, che so, una pizza, un film, magari in una multisala col popcorn, invece sempre seduti lì, la tele accesa, io sferruzzavo, lui si toglieva le caccole dal naso, così, in silenzio, sera dopo sera, come se fuori fosse scoppiata la bomba, e noi due chiusi nel rifugio antiatomico. Ogni tanto Gianni portava della frutta, per Loreto, lo chiamava il nostro bambino, diceva è solo l'inizio, diceva di volere una famiglia numerosa, così a febbraio, prima che arrivasse il giorno di San Valentino con relativo regalo, mollo il Gianni perché mi son detta, meglio vivere sola con un pappagallo che vivere con un fidanzato, un pappagallo e una coppia di cocorite. Gianni non l'ha presa bene, inizia a telefonarmi continuamente. È stato lì, signor commissario, che io e lei ci siamo conosciuti la prima volta. Si ricorda? Voi delle forze dell'ordine non avete potuto fare niente, mi avete detto mette pazienza che è ancora innamorato, ma io dico se telefoni due volte al giorno sei innamorato, se telefoni 20 sei un molestatore. Intanto, una sera, mentre guardo alla tele la terza puntata del Festival di Sanremo, Loreto comincia a cantare la sigla. Allora penso, sta a vedere che per i pappagalli funziona come per i balbuzienti, che se cantano non balbettano. E così, canta che ti ricanta, insegna a Loreto alcune parole che, diciamo, potevano farmi gioco. Certo, signor commissario, anche insulti, come no. Da quel momento, tutte le volte che il mio ex telefona, faccio rispondere dal pappagallo. E Loreto gliene canta quattro. Così mi ritrovo Gianni davanti alla portineria, che urla, perché vuole indietro il pappagallo. E io gli dico, guarda che me l'hai regalato. E lui minaccia, dice, ti renderò la vita impossibile, perché io non ho niente da perdere. Così gli rispondo, non è vero che non hai niente da perdere. Tu hai qualcosa da perdere. Il naso, perché te lo rompo con una testata. E lui allora è andato via borbottando. Puttana, restituiscimi l'uccello. Comunque arriviamo all'episodio della mia 500 della carrozzeria che me la ritrovo tutta rigata e io lì e lei, signor commissario, ci siamo visti la seconda volta, ma non avete potuto fare niente perché non c'erano le prove. Poi è sparito. No, signor commissario, non è sparito il Gianni, è sparito il pappagallo. E non dovevo neanche essere la signora in giallo per capire che era stato il Gianni. E adesso arriviamo al dunque. Questa volta non sono più venuta da voi, mi son detta. Questa volta dalle forze dell'ordine ci vado dopo. E sono andata direttamente a casa di Gianni, ma non ho suonato tanto le chiavi. Entro e la prima cosa che vedo è Loreto, dentro una gabbietta così piccola che doveva restare con la testina tutta piegata. Signor commissario, io non ci ho più visto. Ho preso il coltello della carne e mi sono appostata dietro la porta. Quando Gianni è rientrato, l'ho colpito. 20-25 volte circa, forse 30, non di più. Mi sono trattenuta, signor commissario. Spero il magistrato valuterà positivamente lo sforzo.